bravi. È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del qui non esiste più lo scontro sociale. Se il ceto basso si vergogna di se stesso, punta a emulare quei modelli di successo che sono tanto ricorrenti in una civiltà post-industriale. Nascondi povertà sotto tappeti di cambiare, leghi a beni materiali la tua identità. Rifugi il fallimento, indossi i simulacri. So che compreresti a rate persino la dignità. Lotta di classe è un'espressione fuori moda, perché la realtà dei fatti dice che esiste una classe sola. Il servo è scavo del padrone, le prime rabbia in silenzio perché spera di sottrargli la corona. Ed ancora fronte comune resta un sogno messo agli atti. Tutti vogliono cambiare il proprio mondo e non quello degli altri. È una Babele in cui è impossibile orientarsi. Dio ha sperto pioggia di piombo che darà catarsi. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. La precisione sulla prova vivente che non sente niente. Mentre queste belve bruciano lente, i miei piani rende vani sforzi male. Qui sempre tende la gente, cui presente salve e perde per forze razionali. Vende sogni popolari, fanno che si metta in cielo il mio domani. Umani in alveari difendono merce sotto la pelle spente. Domano fiammella in celle di ragione che si arrende. Ricatti morali nei vostri sogni, contenuto non è più obiettivo. Io sono un tipo contenuto che sa suo obiettivo. Sfido basi monumentale, declino delle convinzioni secolari del mondo in cui vivo. Per non cadere ucciso dai finti ideali, devo distruggere con mani le chiavi di potere. Il mio obiettivo non è vicino ed è paradossale. Il tuo primo nemico è attivo, ma non lo vuoi vedere. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. Ma se ci chiedi a Milano cosa facciamo noi, ci deprimiamo perché tutto ha perso un senso. Le bombe a mano adesso giacciono in silenzio. Sulle illusioni già volteggiano avvoltoi. L'alienazione mi ha reso uno schiavo del cinismo, emarginato ormai sull'orlo di un autismo sociale. Cosa diventa un uomo privato della morale se non un altro figlio dell'opportunismo? Sono riferti dall'opaco, dinamiche dell'universo che spingono chi è diverso. Arriato dello stesso stato, per lo stesso stato che per anni è stato fermo ad osservato. Silenzio, penso alle persone che ogni errore ha messo al margine, senza lasciare un margine d'errore. Contraddizione nel sistema e suo circuito, proprio perché è chiuso non scorre più nessuna posizione. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. Tutto regolare, non ti ribellare. Il cane resta un cane, tu cosa pensavi? È la legge del più forte, più forte, più forte. È la legge del clima di tensione. So che stare allerta in questo clima di tensione. Già, già, già so. Già, già, già sai. So che stare allerta in questo clima.